E allora iniziamo subito questo redazionale mattutino, anche se insomma ormai siamo in tarda mattinata, sono le 11:40, dunque avanti a me due lavoratori dello spettacolo che ci racconteranno innanzitutto questa giornata di ieri, una giornata importante che però insomma nonostante tutto si fa fatica oggi a trovare, chiaramente sulla carta stampata no, perché i giornali non sono usciti, ma anche in rete insomma notizia di quanto avvenuto a Piazza San Giovanni e quindi di questa possiamo anche chiamarla manifestazione con tanto di striscioni che denunciano quanto accade insomma quotidianamente nei luoghi di lavoro in generale, in particolare loro, gli operai dello spettacolo concentrano la loro attenzione sulla mancanza di sicurezza, l'irregolarità dei contratti, i ritmi forsennati che riguardano il loro settore lavorativo. Dunque striscioni anche abbastanza duri, come giusto che sia, visto che pesantissime e durissime sono le conseguenze che capitano a chi insomma si trova a dover lavorare in questi luoghi e magari ne subisce anche le conseguenze in termini di sicurezza. Purtroppo dei lutti si sono registrati nelle ultime settimane. Un po' sono stati anche la molla affinché questo tipo di rabbia esplodesse ancora di più, ma che evidentemente già covava insomma presso la maggior parte delle situazioni dei dipendenti delle ditte che allestiscono i grandi eventi. Ora insomma cederemo la parola a loro e magari ricostruiranno loro meglio l'organizzazione della giornata di ieri e di come è andata. Due cose però appunto volevamo dire: registriamo l'assenza della notizia sui grandi media ufficiali, e questo è un dato di fatto abbastanza allarmante, anche un po' paradossale, dato che si è dato largo spazio nei giorni passati ai controlli che invece sono stati richiesti dall'autorità competente, quindi a partire dal Ministero del Lavoro, e magari poi cercheremo anche di ragionare a quanto servono questi controlli se poi non si agisce su altri versanti che evidentemente forse sono quelli decisivi affinché si possa attenuare insomma questo tipo di situazione, quantomeno dal punto di vista degli incidenti, anche se poi parlare di sanare la questione degli incidenti senza aggredire la questione contrattuale, quella dei ritmi, dell'intensità al lavoro, eccetera, eccetera, è quasi un controsenso, ma insomma cerchiamo di parlarvi di tutto questo nella maniera più ordinata e comprensibile possibile. Quindi do la parola a loro, avete solo un microfono, quindi lo alterniamo. Allora, buongiorno, ripeto, per chi non l'avesse capito, ieri noi siamo andati a contestare il 1° maggio sulla piazza dove si svolgeva il concerto. E, nonostante siamo stati ascoltati e non è stato fatto alcun tipo di commemorazione riguardo agli incidenti che sono avvenuti su questo lavoro, cosa che per noi tra l'altro sarebbe stato inefficace, perché non è parlare del fatto in sé che si risolvono i problemi. La nostra contestazione è stata composta, direi, ma ha avuto il suo effetto. Noi sostanzialmente denunciamo tutto ciò che accede su questo tipo di cantieri, dove ancora oggi nel 2013 non ci sono progetti, non ci sono direttori dei lavori, non c'è alcun tipo di sicurezza. Tutto ciò che è stato detto riguardo ai cambiamenti che sono avvenuti quest'anno in merito all'allestimento di questo evento sono delle menzogne. L'allestimento si è svolto né più né meno come si è svolto in tutti gli altri anni. Si è lavorato di notte, si è lavorato freneticamente. E tutto ciò non ha avuto riscontro sulla carta stampata, non solo perché oggi non escono i giornali, ma anche perché tutto ciò fa comodo a tutti quanti, no? E la nostra contestazione penso che su piazza non abbia precedenti. Poi, dal momento che la carta stampata non ne parla mai, non so, smentitemi se è vero o meno. È la prima volta che qualcuno tenta di contestare un evento che io penso i romani lo subiscano, questo evento, ne siano succubi. Tutto ciò che è blocchi del traffico, blocchi della metropolitana, ambulanze lì su piazza che invece probabilmente potevano servire a gente che realmente ne aveva bisogno, per noi è un vero e proprio scempio. Parliamoci chiaro, sto concerto potrebbero andarlo a fare benissimo fuori dai limiti del raccordo, in una bolla di sapone. Ieri, tra l'altro, la legittimità l'abbiamo acquisita proprio anche dal momento che è morta una persona, cascato un operaio romeno dal ponteggio, per cui c'era ben poco da festeggiare ieri. Ripeto, la nostra contestazione è stata composta. Siamo riusciti ad attaccare degli striscioni, a farci vedere, seppur dal palco hanno fatto finta di niente. Nonostante abbiano accolto le nostre richieste di non parlare del fatto specifico e di non pronunciare i nomi dei nostri amici che ci sono rimasti schiacciati sotto, non ci hanno consentito la possibilità di pronunciare due parole da quel palco che abbiamo costruito noi. Niente, tutto qui. Per noi è importante che questo sia avvenuto e ha avuto il suo effetto, e speriamo che l'anno prossimo vada ancora meglio e che da una parte non si svolga neanche più in una delle piazze più belle d'Italia, che al termine di questa manifestazione rimane uno schifo praticamente. Tutto ciò non ad essere solidali con Alemanno, che vuole spese del concerto dai sindacati, ma per dire che ai sindacati sostanzialmente sta poco a cuore un operaio che perde il lavoro, una persona che perde la vita, specie se il loro bacino d'utenza è così grande. Infatti volevo ricordare anche che ieri siamo stati sostenuti anche da altri lavoratori e studenti che sono venuti con noi a fare questa manifestazione, perché è importante anche per noi allargare il discorso come lavoratori anche agli altri lavoratori di altri settori, perché comunque le problematiche dei contratti irregolari o fittizi non riguardano solo la nostra categoria. Noi abbiamo il problema a monte dell'inesistenza stessa della categoria professionale, non siamo inquadrati secondo le nostre reali mansioni, perché ci sono escamotage, abbiamo contratti dei metalmeccanici, contratti di multiservizi, delle pulizie e facciamo ben altro. Però questa situazione di irregolarità è dovuta alle leggi stesse esistenti, che sono state promulgate dallo Stato negli ultimi 20 anni, sottoscritte anche dai sindacati stessi. Per questo il nostro slogan era: con questi contratti nessuna sicurezza. Nessuna sicurezza nel cantiere, nessuna sicurezza nella vita di tutti i giorni. Nessuna sicurezza della continuità del reddito, nessuna sicurezza di potersi ammalare o di poter godere un domani di una pensione eventuale degna di tale nome, nonostante tutto il lavoro che svolgiamo effettivamente in questo momento. Questi sono problemi che non riguardano solo noi, ce ne rendiamo benissimo conto. Noi come lavoratori stiamo facendo una cosa importante, ovvero quella di organizzarci in un collettivo. Ecco, invitiamo anche tutti gli altri lavoratori a fare altrettanto, perché in questo momento storico di crisi è anche importante mettere in dubbio sul serio, nella pratica, tutto ciò che invece viene avallato nella quotidianità dei fatti. ovvero tutti questi escamotage, questi comportamenti mafiosi che i datori di lavoro hanno, che sembra che bisogna ringraziarli perché ci fanno lavorare, quando comunque la speculazione e lo sfruttamento del lavoro sono dati di per sé, perché nessuno fa niente per niente. E qua sembra veramente che noi dobbiamo ringraziare di ricevere delle paghe che comunque alla fine, rispetto a, al profitto che generano, sono ridicole. Nel nostro settore la questione probabilmente non riguarda solo il profitto in termini economici, ma anche in termini di immagine, che è quello su cui campano gli artisti e le produzioni che, e i loro impresari. E qua c'è da spendere due parole su queste persone. Viviamo nella società dello spettacolo. Debord ha scritto un libro nel 67 che è un'analisi abbastanza anche complicata da comprendere, va letta e riletta, ma già l'ha inquadrato in quindi 35 anni fa quello che è uno dei settori principali della produzione dell'industria culturale e non solo, dell'immaginario collettivo. Noi ci siamo definiti, il nostro blog si chiama mercenarishowbizroma.noblogs.org. La parola mercenari ovviamente non è che ci piace, è una parola autoironica, no? È una parola che significa che noi siamo completamente avulsi dai contenuti che passano sui palchi che noi montiamo. Tutto quello che viene fatto su un palco è una messa in scena. Noi contribuiamo alla messa in scena praticamente, e magari ci mettiamo anche della passione nel nostro lavoro, perché è un lavoro estremo, è un lavoro diverso dagli altri, è un lavoro che ci piace anche fare dal punto di vista tecnico. Ma vogliamo ricordare a tutti che noi non c'entriamo niente con quello che viene prodotto, e quello che viene prodotto molto spesso non lo condividiamo affatto, nemmeno ci piace. Non ci piace la musica pop, e non ci piace l'ipocrisia degli artisti che spendono delle lacrime di coccodrillo ipocrite nel momento in cui è infame, anche perché nel momento in cui muore una persona la produzione resta la stessa, e magari la produzione è stata cambiata perché non è stato messo un ventilatore sul palco. Questo è il caso della signora Laura Pausini, che non ha posto il minimo dubbio sulle persone a cui ha commissionato la produzione del suo evento dopo che è morto Matteo. Le produzioni sono rimaste lì al loro posto. Questo non è stato un motivo di riflessione, non è stato un motivo di cambiamento. Mentre invece per un capriccio magari è capace di mandare a casa l'intero staff, per un capriccio su una cosa inutile ma che riguarda lei nella sua immagine. E allora a questo punto noi pensiamo che anche ieri lo striscione che è stato attaccato nella torretta della regia, che recitava la frase 1400 morti all'anno, due punti, una repubblica fondata sulla strage, questo striscione i signori che si sono esibiti dal palco non possono non averlo letto. Come non possono non avere letto lo striscione che abbiamo portato a mano lì, con scritto nessun, con questi contratti nessuna sicurezza. Evidentemente i cosiddetti artisti sono dei pupazzi, non hanno la possibilità, sul palco non sono persone umane, sono dei semplici marionette che non hanno alcuna libertà di poter parlare della realtà, perché quello che stava succedendo ieri loro l'hanno visto, ma non hanno voluto né potuto magari fare nemmeno un piccolo riferimento a quanto stava accadendo. Allora, se non si tratta di realtà quella in cui noi ci siamo calati ieri in mezzo a centinaia di migliaia di persone, perché c'è un velo che separa la realtà e il palco, ecco, questo velo va squarciato, perché noi abbiamo provato ad andare a parlare sul palco di Antonello Venditti il giorno della nostra manifestazione al Palalottomatica l'8 marzo e ci è stato negato il permesso dalla produzione Friends and Partner perché dicevamo delle cose, avremmo voluto dire delle cose che andavano ancora dimostrate per via giudiziaria, ovvero attribuiamo la grande responsabilità, la più grande responsabilità della morte di Matteo a chi ha permesso di poter allestire un palco del genere all'interno di un palazzetto del genere a Reggio Calabria. E così come non ci è stata concessa la possibilità di parlare dal palco della FIOM il giorno dopo, il 9 marzo, quando ci siamo presentati là abbiamo attaccato gli striscioni sulla torretta della regia anche quel giorno. Non essendo in scaletta, ovviamente non è stato nemmeno preso in considerazione l'ipotesi che degli operai parlassero durante la manifestazione della FIOM. Non c'è alcun tipo di libertà d'espressione all'interno di un palco che è teatro di uno show dove tutto è previsto dall'inizio alla fine e non si può sgarrare di una virgola nei contenuti che sono stati previsti prima. In questo senso noi siamo completamente alienati e quindi mercenari rispetto a quello che andiamo, che contribuiamo nostro malgrado a costruire. Mercenari in quanto noi andiamo là perché lo facciamo per lavoro, quindi per i soldi. Per il resto, proprio ritornando al senso di questa parola, schifiamo la guerra e la società che produce la guerra, quindi non c'entriamo niente ovviamente con questo tipo di meccanismo. Però questo era un po' per spiegare anche questo termine che può apparire contraddittorio, no? E io volevo chiedere una cosa, dunque lo ha accennato tra l'altro il compagno prima, insomma, a proposito delle novità presunte che sono state presentate alla vigilia dell'organizzazione di questo concerto, soprattutto insomma propagandate dal prefetto Pecoraro. Si è detto appunto che i tempi di allestimento sarebbero dovuti comunque d'ora innanzi, perlomeno nella città di Roma, essere molto più lunghi. Tra l'altro a questo annuncio hanno fatto seguito anche le preoccupazioni, anche abbastanza, come dire, scontate da parte delle ditte, credo anche degli impresari, insomma, che reputano Assomusica appunto, che reputano impossibile, insomma, no, una riduzione dei tempi così fatta, perché impedirebbero proprio, come dire, gli spostamenti e la possibilità che i concerti possano essere fatti da un giorno appresso all'altro, insomma. Nonostante questo, tu hai già detto che comunque questo tipo di cambiamenti in realtà non hanno inciso minimamente. Come possiamo spiegarcelo questo? Cioè, nel senso, era un annuncio davvero reclamistico solo per sollevare un po' il problema o far capire che ci sarebbero stati degli interventi, ma che poi, come spesso accade, annunci che hanno lasciato che poi di fronte, insomma, alla concretezza si sono sciolti come neve al sole, di questo che si tratta? Oppure ancora, insomma, devono entrare a regime queste nuove misure? Hanno detto da novembre comunque. Quello che ha detto il prefetto di Roma dovrebbe essere messo in atto da settembre, per cui adesso avremo tutta la stagione davanti, una miriade di concerti, per cui per adesso ancora andremo avanti così, anche se un piccolo cambiamento è avvenuto, ovvero ad ogni allestimento vengono gli ispettorati del lavoro o comunque le istituzioni a fare dei controlli. Controlli che però partono dal basso e si fermano e si limitano a controllare che gli operai abbiano il caschetto, le scarpe allacciate, senza stare lì a controllare se poi queste strutture siano realmente progettate, se stanno in piedi sostanzialmente. Per cui stiamo a parlare di retorica. Non è così che si cambiano le cose, non è facendo dei controlli sul cantiere che risolviamo la questione, non è parlando dei morti dei amici nostri che risolviamo il problema. Il problema va affrontato più seriamente. Teniamo presente che amici nostri sono morti per poche centinaia d'euro, no per migliaia di euro, per cui non è neanche un problema economico. Cioè, se risparmiano delle miserie e poi la gente ci muore sotto, per cui non, cioè, non è così che si risolve il problema. Non è cambiato niente, sostanzialmente. Anzi, probabilmente qualcosina è cambiato, sì, si è irrigidito come al solito la condizione del lavoro, perché tu sei costretto a portarti da casa la sicurezza, l'attrezzatura, a stare attento che queste strutture siano in piedi. In che modo? Mettendo sul campo la tua esperienza. Ma se poi sul cantiere ci sono persone che lavorano il primo giorno che lavorano, no, cioè, questa è pura retorica, no, non è così che si risolvono i problemi. Quindi è proprio l'organizzazione a monte, come dire, del processo produttivo, potremmo definirlo, insomma, che evidentemente andrebbe totalmente rifondata e rivista. E quindi, ecco, anche in questa occasione si è lavorato di notte. Si è lavorato di notte, è stato chiesto agli allestitori che hanno finito, per chi avesse detto che se lavorava fino alle 10 di sera, si è lavorato pure fino alle 3 di notte, e alle 8 di mattina bisognava restare sul cantiere. È stato chiesto agli allestitori di restare a dormire dentro ai container che stavano lì al primo maggio per l'acqua e per attrezzature, in modo tale che così alla mattina erano pronti già per poter ricominciare a lavorare. Per cui forse è andato anche peggio degli altri anni, parliamoci chiaro. Cioè, quando noi ci siamo passati sul cantiere a andare a attaccare striscioni, stavano ancora a carissimo amico. Per cui non... Va bene, allora noi mandiamo un altro un po' di musica e ritorniamo tra pochi minuti. Allora, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta, sempre da Onda Rossa. Dunque, per così reintrodurre qualche elemento nella discussione, bisogna anche cercare, insomma, di allargare magari il discorso e provare a pensare a quanti possono essere coinvolti da una iniziativa come quella che si è verificata ieri a San Giovanni. E a quel punto, insomma, dovrebbe scattare una assunzione di responsabilità che potrebbe coinvolgere coloro i quali assistono al concerto, che potrebbe coinvolgere, come stavamo dicendo prima, gli addetti alla sicurezza, che potrebbe coinvolgere, forse primi tra tutti, gli artisti che si esibiscono sul palco. Poi, insomma, proprio gli operai ieri sono stati invece testimoni di un altro scenario, e magari è il caso che ce lo spieghino loro, insomma. Per farla breve, nessuno in realtà ha provato a coinvolgersi direttamente rispetto a quanto stava succedendo, magari cercando di, quando era il caso, mettere una parola in più, oppure rallentare un'operazione, ad esempio per lasciare la possibilità che gli striscioni fossero visti più a lungo, eccetera, eccetera. Sì, infatti una valutazione a caldo anche sulla reazione sia del pubblico che dei ragazzi che lavorano per la sicurezza è che, insomma, mettendo il primo striscione sulla torretta del delay audio, è partito un applauso da parte delle persone del pubblico che hanno visto alcuni operai salire sulla torretta per mettere lo striscione, però al contempo, insomma, invece gli altri lavoratori salariati, anche loro per 7-8 euro l'ora, che lavorano per la società che si occupa della sicurezza, non hanno voluto comprendere magari che stavamo facendo una cosa che riguarda anche loro, e magari hanno cercato di ostacolare, anche non riuscendoci, la nostra azione, che non avrebbe fatto male a nessuno. Ovviamente chi è salito era ben capace di stare lì a 4 metri a mettere uno striscione, aveva pure l'imbrago e il caschetto, tra l'altro. E quindi la scusante, ah, si può far male qualcuno se uno casca di sotto da là mentre fa questa cosa, noi ci andiamo di mezzo, è una palese menzogna, dal momento che non si sarebbe sicuramente fatto male nessuno in quel frangente, perché ripeto, si è fatto ben di peggio per motivi lavorativi. Tant'è vero che gli striscioni che sono stati affissi sulla torretta della regia invece sono stati messi proprio da lavoratori stessi, e purtroppo quello che era rivolto verso il palco è stato fatto rimosso alle 7, alle 19, perché da lì cominciava la diretta con maggiore share, e quindi per tutelare la possibilità di fare dei controcampi dal palco con la telecamera che inquadravano anche la torretta della regia, ecco, appunto, la censura è avvenuta perché per tutelare una che non ci fosse nessun tipo di messaggio in controtendenza, questo striscione è stato tolto, nonostante tutti l'abbiano visto e sappiano che è stato messo dagli stessi lavoratori che stavano lì. Io penso che molte persone del pubblico che si sono lamentate dopo un po' di tempo che lo striscione invece che portavamo a mano gli copriva la visuale del palco, probabilmente neanche hanno letto quello che c'era scritto sullo striscione. C'è addirittura anche chi ha lanciato oggetti contro lo striscione perché gli impediva di vedere il concerto. Beh, sinceramente queste sono cose che fanno un po' male per la poca intelligenza delle persone che compiono un gesto del genere, perché io sono sicuro che se non si può non essere d'accordo, i ragazzi che stavano lì al concerto sicuramente fanno dei lavori precari, sicuramente non avranno una pensione, sicuramente si rendono conto, se ragionassero un attimo e usassero il cervello, che il problema che noi ci stiamo vivendo a livello generazionale di mancanza di futuro e di qualsiasi minima certezza vada affrontato adesso, una volta per tutte e tutti insieme, perché altre persone, non si può dire che nessuno abbia raccolto tra il pubblico quello che stavamo facendo, perché persone ci chiedevano di leggere meglio, di capire, gli abbiamo dato il volantino, molti però di quelli che usufruiscono della musica dal vivo probabilmente quando spendono 30, 40, 50, 60 euro per un biglietto probabilmente non hanno la minima cognizione di quello che c'è dietro. Non se ne può fare una colpa al singolo spettatore, perché evidentemente la musica live è un momento di svago, di sfogo, come può essere lo stadio, come sono altre forme di intrattenimento. C'è in atto, dal punto di vista proprio degli eventi, un cambiamento dagli anni 90 a oggi, sia nella loro fase realizzativa, perché c'è una spettacolarizzazione sempre maggiore, un uso della tecnologia sempre più avanzato. Dall'altra c'è un concetto che è quello che passa per il costo dei biglietti, che è quello dell'esclusività dell'evento live. Prima probabilmente nel disegno di chi fa intrattenimento, di chi detiene, diciamo, le redini dell'industria culturale, c'era la volontà di allargare alla massa il più possibile questi eventi per usarli anche come valvola di sfogo. Penso tanto anche allo stadio, perché comunque in questo senso i discorsi sono paralleli. Adesso invece, andando avanti nel tempo, avendo preso piede sempre di più invece l'uso televisivo, soprattutto col digitale, si tende da una parte a lasciarti a casa, a farti rimanere a casa. Vediamo come tutta la storia della tessera del tifoso, l'aumento del costo dei biglietti dello stadio per esempio spinge la gente costretta a vedersi la partita a casa perché dà fastidio a una forma aggregativa come lo stadio, ha creato dei problemi perché diventa anche un fenomeno poco controllabile quando si creano situazioni di massa. E invece adesso tendenzialmente con tornelli, tessere, foto e tutto tendono a controllare chi assiste all'evento live. Nello stesso modo nei concerti, con l'aumento allucinante del costo dei biglietti, perché se pensiamo che un biglietto poteva costare 30.000 lire nel 2000, mi ricordo il concerto di Rage Against the Machine, forse l'ultimo che sono andato a vedere da spettatore, non lavorando ancora in questo settore, e adesso costerebbe 40 euro al Palalo Automatica. Nello stesso modo, faccio una piccola parentesi, le paghe degli operai che montano i palchi sono state convertite in euro dalla lira e è evidente che l'inflazione generata proprio da questo passaggio di sistema economico abbia dimezzato il potere d'acquisto di queste paghe, perché se uno prendeva 200.000 lire a fine concerto cash la sera stessa e tornava a casa dopo 10 giorni di lavoro aveva alzato 2 milioni, se oggi invece prende 1.000 euro e li prende 90 giorni dopo, sinceramente il gioco non vale più neanche la candela. E riguardo al pubblico invece, andare ad assistere a un evento live diventa un fattore esclusivo, te lo devi permettere e devi oppure fare un sacrificio per poter assistere. Quindi in quel momento io mi immagino che chi partecipa all'evento non si ponga tanti problemi, diciamo, che stanno a monte di questo processo produttivo. Però questo fattore di esclusività dell'evento live è in linea con il divismo degli artisti, ovvero che tutto questo meccanismo che c'è dietro alla figura degli artisti, avallato poi dalla televisione con programmi allucinanti come Grande Fratello o Amici di Maria De Filippi, che fanno schifo e producono proprio una mentalità sbagliata nelle persone, questa di voler arrivare a essere al centro dell'attenzione nella società dell'immagine, molto consumista, diciamo che rientra pienamente poi con il modo di fare che hanno questi artisti, le loro pretese assurde, il fatto che tutto lo staff che gli sta dietro gli sia appresso su ogni minima cazzata, andando a spendere un sacco di soldi per cose inutili e poi andando a risparmiare però al contrario fino all'ultimo centesimo su chi e materialmente produce poi dopo quella messa in scena, perché chi scarica i camion che arrivano, i bilici li chiamiamo noi, da 16 metri pieni di bauli a tappo, magari lavora 4 ore il classico mezzo turno e si porta a casa 24 euro. Ragazzi, stiamo parlando di una cifra che non vale manco la pena di uscire di casa, cioè te ci compri da mangiare le sigarette e tu però hai permesso, grazie a quel bucio di culo che ti sei fatto, perché è un bucio di culo, hai permesso che quello schifo di concerto venga messo in scena. Senza di te sta cosa non avverrebbe, perché ci voglio vedere quelli della produzione o l'artista a scaricarsi il bilico. Ma quando lo fanno? E infatti cercano di prendere persone o che fanno sto lavoro saltuariamente e quindi gli danno l'attenzione che si merita, ovvero mi metto due soldi in tasca mentre studio, infatti lavorano persone dai 16 anni ma anche ai 50 come Facchini, e magari cominciano facendosi la stagione estiva quando ancora vanno a scuola, oppure se fanno l'università come Francesco Pinna, hanno fatto tutto questo discorso che era un operaio studente, che a lui gli stava bene così. Ma per favore, non è che gli stava bene così, è che le regole del gioco sono queste. Allora, io penso che come minimo uno dovrebbe prendere almeno 10 euro l'ora per fare un lavoro del genere non qualificato, che sono le vecchie 10.000 lire del 99, quelle che comunque si prendevano. Invece questi ti danno 6 euro, scarsi. E a monte magari la produzione paga al Facchino 14 euro, quindi pretende dal Facchino che faccia tutto quello che gli dice, perché loro ci spendono i soldi, ma essendoci una catena di creste su creste nei passaggi di soldi, perché qua c'è un sacco di gente che fa i soldi procacciando lavoro e non facendo un cazzo, stando a casa, stando in ufficio, dove gli pare, ma materialmente la fatica che ci viene messa da altri. per ogni persona che sta a lavorare di una ditta a 6 euro l'ora lì sul cantiere, c'è qualcun altro che guadagna altri 6 euro l'ora per ogni persona che sta là. Questo è il meccanismo aberrante. Allora, probabilmente anche in virtù di questo meccanismo, insomma, che le irregolarità contrattuali all'interno dei cantieri sono sempre più numerose, ultimamente pare che vengano anche accertate. Noi dobbiamo andare in chiusura anche perché dobbiamo occuparci dell'occupazione di Via Prenestina e capire come sta andando, e lo faremo tra pochi minuti. Però insomma volevo concludere proprio chiedendovi da parte vostra una riflessione su questi controlli, insomma, che ultimamente sono partiti, che tra l'altro non hanno coinvolto solo la città di Roma e il palco del primo maggio, ma si sono verificati anche e sempre a proposito dei concerti organizzati per il primo maggio a ridosso di esso, anche a Viareggio, dove insomma si doveva esibire Samuele Bersani e si è trovato insomma un rapporto di lavoro in nero per l'appunto, ma soprattutto a Caserta, dove si è scoperto che 61 operai impegnati nel montaggio della struttura per il concerto di Tiziano Ferro erano anch'essi appunto impiegati in nero. Quindi l'accertamento di queste irregolarità è avvenuto, ma probabilmente insomma non è sufficiente, non basta, e ci si chiede se non sia come dire una sorta di specchietto per le allodole, per far capire che insomma un po' ci si sta muovendo, che il problema, dato che è stato sollevato, è tenuto con attenzione, ma poi in realtà i passi evidentemente che dovrebbero essere fatti forse sono degli altri, non lo so. Il discorso è che i controlli vengono effettuati su tutti i cantieri e su tutti gli allestimenti dello spettacolo in questi giorni. Però questa cosa è temporanea, i stessi ispettori del lavoro ci hanno detto che i loro mezzi sono limitatissimi, cioè nel Lazio sono solamente 11, figuriamoci in Calabria, cioè mi chiedo se ci sia un ispettorato del lavoro in Calabria. Questa cosa è temporanea, sarà di passaggio per adesso, ma poi ritornerà tutto come prima. Il problema è strutturale, cioè siamo nel 2013, ancora non c'è una persona che coordina queste persone che lavorano. Cioè ieri è morto un operaio all'Aquila, è cascato da un ponteggio, al Brancaccio è cascato uno dentro una botola, si è rotto la mano, si è rotto un braccio. Voglio dire, il primo maggio non è un giorno di festa, è un giorno di lutto, c'è poco da festeggiare. Per cui se non partiamo da una modifica strutturale di questi allestimenti, non risolviamo nulla. Servono progettazioni, servono persone che coordinano gli operai stessi, che altrimenti loro stessi sono comandati dal loro buon senso, che però in alcuni casi non è detto che sia efficace, anzi può essere molto pericoloso. Guarda, quello che a me ha lasciato allibito sinceramente di tutte queste notizie dei controlli è quella del fatto che un cittadino moldavo che fa lo SCAF è stato espulso. Allora io mi chiedo una cosa, ma per avere il diritto, tra virgolette, a questo punto mi metto, di soggiornare nel paese, nello Stato italiano, no? Da quanto ho capito io, no? Le regole sono avere un indirizzo di residenza e un posto di lavoro. Allora, siccome probabilmente chi lavora non vive in mezzo alla strada come un barbone, perché si paga pure l'affitto, perché se uno va a lavorare evidentemente accetta purtroppo per fortuna i meccanismi del gioco e sta lì a lavorare, viene trovato come lavoratore in nero per una ditta specializzata che è una delle più grosse d'Italia in questo settore, perché è stato espulso? Lui stava lavorando, quindi stava evidentemente espletando quello che gli dà il diritto al permesso di soggiorno. La colpa è di chi l'ha mandato a lavorare senza fargli un contratto. Questa cosa che lui sia stato mandato in un CIE e poi espulso è una cosa proprio che non sta né in cielo né in terra, una cosa che a me mi fa accapponare la pelle, perché lo Stato come ragiona allora? cioè si chiude gli occhi e va a caso, cioè spara a casaccio. Adesso in questo momento c'è l'attenzione dei media puntata, qualcuno magari si fa pure bello del fatto che sta facendo qualcosa, però qua c'è da interrogarsi su quali sono ste regole del gioco. Cioè non è che noi che lavoriamo ci deve sembrare di stanno a rubare, perché purtroppo chi ha fatto sto lavoro sa che sembra un po' così. Quando te stai andando a fare il lavoro per 6 euro l'ora, oppure per, se fai il tecnico, per qualche spiccio di più. Ma noi dobbiamo essere, cioè la dignità dei lavoratori è quella di essere messi in condizione che già stiamo facendo una cosa che è un evidente sfruttamento, ma una volta che accettiamo pure questa, nostro malgrado, questa regola, almeno qualche tutela ci deve essere garantita. Cioè chi ruba non siamo noi. E questo è il discorso, che può sembrare banale, però alla fine nella vita individuale di ognuno di noi, cioè se stai a fare il facchino in nero e arriva il controllo, ti devi scappare. Ma a voi vi pare normale questa cosa? A Caserta i ragazzi che lavoravano quando c'era il concerto della Pausini, ma già è tanto che stavano là a lavorare invece di andare a spacciare, che venivano magari, è gente che non può essere colpita dal fatto che sta andando al lavoro. Il cittadino moldavo espulso è una cosa che non si può sentire. Scusate lo sfogo, ma cioè, ieri i ragazzi della sicurezza, per esempio, ci hanno imputato di mettere a rischio il loro posto di lavoro. Beh, per quanto mi riguarda, il compromesso è che o rischi di non tornarci per niente a casa, oppure ci torni senza una lira e magari fai qualcosa per trovare un'alternativa. È ovvio, è chiaro, e questo presuppone insomma un ragionamento, o come vogliamo chiamarlo, presa di coscienza, che probabilmente insomma potrebbe essere stimolata proprio dal tentativo che il gruppo degli operai dello spettacolo, che lavora soprattutto insomma all'interno della nostra città, sta effettuando da un po' di tempo per cercare di trovare le forme aggregative idonee affinché si possano intravedere all'orizzonte dei miglioramenti netti della loro posizione lavorativa e insomma anche dell'organizzazione del loro lavoro. Io direi di chiudere e volevo appunto, ecco appunto, i contatti, perché così chi è all'ascolto può raggiungervi e chiamarvi. Sì, ricordiamo quindi a tutte e tutti coloro che sono in ascolto che noi ci vediamo tutti i martedì alle 9 di sera a Via degli Arvali 13A come collettivo auto-organizzato degli operai dello spettacolo. Il nostro blog è mercenarishowbizroma.noblogs.org. Chi volesse mandarci una mail o avere contatti può scrivere a operaispettacololiveroma@gmail.com. E vogliamo chiudere con un invito a tutti e tutte a fare altrettanto di quello che stiamo facendo noi. Anche chi fa parte di altri settori o chi volesse per conto suo cominciare a organizzarsi sui posti di lavoro, è importante a questo punto che si auto-organizzi al di fuori dei partiti e dei sindacati, perché abbiamo proprio toccato con mano che ci prendono solo per il culo, e è il momento di allargare insomma questo dibattito e cominciare anche a fare qualcosa di concreto. E infatti nelle nostre intenzioni c'è quello di fare anche un'assemblea nazionale con gli altri lavoratori delle altre città che fanno il nostro stesso mestiere, perché è molto importante che questa iniziativa che stiamo portando avanti noi a Roma prenda piede nel resto del paese. Va bene, allora noi salutiamo gli operai dello spettacolo che sono stati qui con noi stamattina, e pochi minuti e ci colleghiamo con l'occupazione di Via Prenestina.